Allora, benvenuti, buonasera signore e signori e soprattutto ai nostri ospiti, il dottor Di Michele e il dottor Quinto Antonelli. Sono due storici che già conoscete perché da anni lavorano nell'ambito della ricerca, sono autori di libri conosciuti, diffusi e di grande livello. Abbiamo il piacere di averli con noi questa sera, all'occasione appunto anche quella dell'anno legato alla Prima Guerra Mondiale, quindi ci sono tante ricorrenze. È sembrato molto interessante l'invito che ci aveva fatto ancora in estate Andrea Di Michele di portare qui a Bolzano e presentare il libro appunto 100 anni di grande guerra, cerimonie, monumenti, memorie, contromemorie di Quinto Antonelli. La memorialistica è sicuramente una parte, un aspetto della ricerca storica recente che ci ha anche affascinato come biblioteca, e vediamo che spesso le persone anche la cercano, la vogliono scoprire perché c'è quella parte umana molto coinvolgente ed emotiva, ma questo libro non riguarderà solo questo aspetto e sentiremo da viva voce dei due ospiti invece di che cosa si occupa. Ma la biblioteca, seguendo le proprie così finalità, ha voluto anche così cogliere questa occasione e creare una piccola vetrina di libri che possono poi anche permettervi di leggere non solo quello scritto da Quinto Antonelli, ma anche altre così occasioni di lettura, visto che lo facciamo anche per promuovere un po' la curiosità e l'approfondimento. Vi invito poi lunedì prossimo a venire alla presentazione del libro Noi e i robot, la robotica e l'umanità, questo rapporto particolare che è un tema attualissimo, fa parte di una rassegna dedicata alle scienze che la biblioteca intraprende occasionalmente anche per valorizzare la saggistica che noi stiamo raccogliendo e documentando. E infine giovedì prossimo c'è l'open day fra due giorni, quindi il 103 vi rimarrà aperto dalle 10 alle 22 con tantissime iniziative, sono sul sito web, su Facebook e ci sono anche questi depliant dove ci sono tutte le iniziative in corso durante la giornata. Infine, per chi avesse piacere e interesse, ogni anno la biblioteca organizza il premio Claudio Augusta con scadenza il 5 ottobre, raccogliamo tesi di laurea e di specializzazione per che abbiano un interesse locale e quindi se avete conoscenza di qualcuno che si sta occupando di un tema specifico legato al territorio potete indirizzarlo alla nostra biblioteca che ha tutto l'interesse di documentare e di raccogliere questi lavori particolari. Vi ringrazio ancora, lascio subito la parola ai nostri protagonisti e li ringrazio perché in questo modo noi riusciamo ad ampliare e a gettare uno sguardo su un momento particolare che è stato determinante poi per il nostro, anche per il nostro territorio e che il prossimo anno verrà ulteriormente così ricordato con parecchie iniziative. Grazie. Bene, buonasera a tutti e benvenuti. Io sono molto contento di poter presentare questo libro di Quinto Antonelli qui a Bolzano perché, come cercherò poi di spiegare, come spiegherà lui stesso, è un libro molto importante, ecco, un libro importante, un libro da leggere. Prima di tutto vorrei dire due parole sull'autore, magari non è noto a tutti, anche se è sicuramente uno storico noto non soltanto a livello regionale. E Quinto Antonelli è responsabile dell'archivio della scrittura popolare della Fondazione Museo Storico del Trentino, che è un'istituzione nata nel corso degli anni Ottanta, mi sembra nell'87, e da una speciale esperienza di ricerca che era stata avviata almeno una decina di anni prima tra Trento e Rovereto e che poneva al centro la conservazione ma soprattutto lo studio e l'utilizzo, la rivalutazione, l'utilizzo come fonte delle scritture popolari, quindi delle scritture dei ceti subalterni. E questo archivio nel corso dei decenni ormai ha lavorato come luogo fisico di conservazione in primo luogo, ma anche come luogo di ricerca su queste fonti, come luogo di pubblicazione di collane editoriali commentate di scritture popolari. E Antonelli è stato appunto uno dei protagonisti di quella stagione di studi, di ricerche che ha aperto un po' anche a livello nazionale una stagione appunto più ampia che si concentrava per la prima volta su queste scritture dei ceti subalterni. E ha scritto libri importanti, alcuni ce ne sono presenti qui, sono qui della biblioteca, come ad esempio Storie da quattro soldi, Canzonieri popolari trentini, o I dimenticati della Grande Guerra, La memoria dei combattenti trentini. Più recentemente, nel 2014, ha pubblicato da Donzelli, quindi dallo stesso editore di questo ultimo libro, Storia intima della Grande Guerra, Lettere, diari e memorie dei soldati dal fronte, che è un libro che è stato presentato proprio qui, tra il resto, e che è stato più volte ristampato, ha vinto anche un importante premio internazionale nel 2015. Si è occupato poi di altri temi, in particolare di storia dell'educazione, di storia della scuola, pubblicando il libro Storia della scuola trentina, dall'umanesimo al fascismo. E ora questo libro, 100 anni di grande guerra, che rappresenta l'esito di una ricerca sicuramente pluriennale sul tema della grande guerra e in particolare direi sulla grande guerra dopo la grande guerra, e cioè su come questa guerra è stata raccontata, è stata rappresentata nei discorsi, nei monumenti, nelle manifestazioni, nei libri, nelle memorie, e quindi in una pluralità di sedi e utilizzando una pluralità di linguaggi in 100 anni ormai di storia. Quindi è un libro, come dire, non sulla guerra, non sul periodo della guerra, ma sul racconto che della guerra è stato fatto in esattamente un secolo di storia. E io credo che questo libro sia un libro importante, sia un gran bel libro che si debba leggere per diversi motivi. Intanto è scritto in maniera assolutamente godibilissima e non ci si dovrebbe, non fatevi impressionare dalla mole, nel senso che è un libro importante dal punto di vista così delle dimensioni, ma che si può facilmente approcciare anche seguendo temi ben riconoscibili, isolandoli e ben isolati e ben riconoscibili all'interno dei capitoli e dei paragrafi in cui è strutturato il volume. È una scrittura come dire limpida, ma anche molto partecipe, una scrittura che una volta si sarebbe detta militante, diciamo così, e cioè non neutrale, e poi vedremo che cosa intendo con non neutrale e con militante, ma basata su un impianto, come dire, scientifico e documentario molto forte, molto solido, ed è davvero impressionante il lavoro che è stato fatto di ricerca sulle fonti primarie e sulle fonti secondarie. Quindi è un lavoro, come dire, che ha le sue radici su anni e anni di studi e di ricerche. E io pensavo di così presentare questo libro insieme a Quinto Antonelli ponendo qualche questione, qualche domanda tra virgolette, e quindi facendo più che una relazione io e una relazione lui, facendo un po' un colloquio su alcuni temi secondo me importanti di questo volume, poi lasciando ovviamente lo spazio alle considerazioni e alle domande del pubblico. E mi sembra, ed è anche dichiarato all'inizio del volume, che un elemento centrale, cioè un po' il filo rosso di questo volume, sia la sottolineatura della fortissima continuità nel modo in cui si è dipanato il racconto della guerra a partire dall'immediato dopoguerra, quindi negli anni dell'Italia liberale, per poi passare al fascismo, per poi passare alla Repubblica, alla prima e alla cosiddetta seconda repubblica, cioè una forte continuità di temi e di toni, di giudizi su questa guerra. E leggendo il libro è abbastanza impressionante leggere e scoprire come quanto resistente sia stato e continui ad essere il racconto di quella guerra come una guerra sostanzialmente una guerra giusta, diciamo così, cioè una guerra che non si poteva non fare, una guerra tutto sommato nobilitante, una guerra eroica, una grande prova nazionale che l'Italia avrebbe superato e che avrebbe fatto un'Italia più matura, più unita, più grande, più forte, e anche una guerra risorgimentale che libera finalmente dall'oppressione straniera, che conduce all'unificazione, al completamento dell'unificazione nazionale. Ecco, tutti questi temi, è abbastanza impressionante notare come nel basso continuo sul racconto della guerra tutti questi temi, con toni ovviamente che cambiano, che mutano, siano assolutamente resistenti e si riesca a ritrovarli sostanzialmente fino al giorno d'oggi, fino a questo centenario che celebriamo in questi anni, in questo anno in particolare. Ecco, io chiederei una considerazione su questa continuità e un ragionamento su come si spiega questa continuità, francamente un po' inaspettata, è una particolarità italiana, è un tema, è una continuità che ritroviamo anche negli altri paesi coinvolti dalla guerra. Grazie, buona. Sono contento, insomma, di essere qui. Si sente? È aperto il microfono? Sì. Affronto subito questa la domanda di Andrea, è una domanda centrale, perché è vero, sì, il libro si costruisce proprio intorno a questa continuità. È una continuità che si sviluppa, come ha detto bene Andrea, con toni diversi, con accentuazioni diverse, ma che insomma viene continuamente ribadita. Prendiamo l'esempio forse più visibile, più eclatante. Prendiamo i grandi ossari, i grandi santuari del fascismo, Re di Puglia, Montegrappa, sono sterminati cimiteri, sono grandi monumenti, vennero costruiti negli anni 30, simboleggiano l'idea che il fascismo aveva della guerra e dei morti per la guerra. Sono l'esempio forse più magniloquente della morte di massa, e però della morte subalterna, della morte del gregariato di massa. Tutti simili, tutti uguali nella morte, fuorché gli ufficiali, c'è la ribadita affermazione di una morte, di un sacrificio protofascista. Re di Puglia si ribadisce a Re di Puglia per 8.000 volte la parola presente. È l'appello che il fascismo fa ai morti, quelli di essere ancora presenti, un'armata che è sempre pronta a risorgere. Pensate che a Re di Puglia, insomma, Re di Puglia si costruisce, viene costruito e viene inaugurato nel 1938, proprio alla vigilia di un'altra guerra. E queste 8.000 volte la parola presente ribadita vuol dire appunto avere a che fare con un'armata di morti pronti però, come dire, a risorgere, a parlare ai vivi, a comunicare con i vivi, a spronarli ad una nuova guerra. Bene, è a Re di Puglia che immediatamente nel dopoguerra, in un ambito politico del tutto diverso, la Repubblica, la democrazia, è appunto in questi santuari della religione politica del fascismo che comunque si continua a celebrare, a ricordare la Grande Guerra. Lo fanno i ministri della difesa, lo fanno i presidenti della Repubblica negli anni 40, negli anni 50, negli anni 60, lo fa Mattarella negli anni del centenario. Sempre lì, sempre sul Monte Grappa, sempre su Re di Puglia, sempre più o meno dicendo le stesse cose. Certo, cambia. Come dire, cambia il tono, ma non nella sostanza. questa narrazione di una guerra sostanzialmente giusta e quindi una guerra di difesa. Certo, negli anni del fascismo si celebra la vittoria, negli anni del fascismo si celebra l'Italia più grande, si celebrano le conquiste, un'idea di Italia dominatrice nel Mediterraneo. E nel dopoguerra cambia qualcosa, l'accento è spostato sulla guerra risorgimentale, quarta guerra del risorgimento, una guerra che completa le altre guerre e completa l'unità d'Italia. Ecco, tutta questa narrazione del dopoguerra si esprime in modo particolare nel 49, quando il 4 novembre viene riaffermata come festa giorno, festa nazionale, ma non più come festa della vittoria, quanto dell'unificazione nazionale e giornata delle forze armate. Quindi da parte di un governo, nel 49 è presieduto da De Gasperi, e da parte di un governo repubblicano e democratico c'è, insomma, l'acquisizione e l'affermazione di un racconto mitico della Grande Guerra, e cioè come guerra che completa l'unità d'Italia. E quindi in qualche modo si accredita quella che è una leggenda, ma non la verità storica. La verità storica, come ben sappiamo, è un'altra cosa. Si rifà il patto di Londra, si entra in guerra nel maggio del 1914, dopo aver contrattato da una parte con gli imperi centrali e dall'altra parte con Inghilterra, Francia e Russia, e constatando sui due tavoli quali possessi territoriali erano più soddisfacenti a far sì che quell'Italia del 1915 diventasse un'Italia più potente, un'Italia dominatrice e capace di stare al passo con potenze imperiali come la Francia, l'Inghilterra, eccetera, eccetera. Al fondo del patto di Londra c'è quindi l'idea, il progetto meglio, di far diventare l'Italia la dominatrice del Mediterraneo, un'Italia imperiale. C'è un disegno imperialistico nel progetto di Salandro e di Sonnino, quindi la Dalmazia, quindi territori dell'Albania, territori della Turchia, territori africani, è il mare Mediterraneo che va dominato. L'Italia si sente capace di dominare questo ambito che spetta appunto a una nazione appunto come quella italiana. E poi appunto i confini, il Brennero, confini che nella geopolitica di allora sembravano importantissimi, e poco importava che non fossero in Italia, che fossero nel Tirolo, poco importava che quel pezzo di territorio fosse abitato appunto da una popolazione non italiana, e anche questo vediamo quindi un progetto di tipo imperialistico, e si entra in guerra per questo muoiono più di mezzo milione di persone, però questo non è possibile poi raccontarlo successivamente, e quindi rispuntano queste narrazioni risorgimentali, la quarta guerra d'indipendenza, e sono queste narrazioni che poi prendono piede nel secondo dopoguerra e sono quelle, insomma, che noi sentiamo ancora raccontare. Ancora in questo centenario, insomma, sono quelle che vengono riprese da associazioni come quelle degli alpini, per esempio. Le ritroviamo in alcune prese di posizioni neopatriottiche delle associazioni d'arma o anche in alcuni commenti televisivi, in alcuni libri di giornalisti, insomma. Vedo sempre di più, ho potuto constatare meglio in questo centenario, quanta separazione, quanto iato ci sia, insomma, tra la riflessione storica, i libri degli storici, la ricerca degli storici, i convegni che si fanno gli storici, i libri, gli atti dei convegni, le parole d'ordine, la guerra come apocalisse, per esempio, apre nel 14 tutta la riflessione storica del centenario. E dall'altra parte le iniziative invece che coinvolgono le persone comuni. Le iniziative che si fanno sul territorio sono spettacoli teatrali, per esempio, sono libri divulgativi, sono i libri dei giornalisti, sono le iniziative degli alpini, sono le trincee che si rimettono a posto, sono l'inaugurazione appunto di queste trincee, di questi manufatti, sono tutte le iniziative abbastanza folcloristiche dei figuranti che si rivestono con le divise di 100 anni fa, che mimano le battaglie, sono appunto le gare ciclistiche, le gare di montagna che si fanno intorno ai forti, c'è insomma una, lasciatemi passare il termine, una fortissima banalizzazione della guerra e della sua tragedia. Ecco, da una parte appunto c'è una riflessione storica che a me sembra anche sempre più interessante, sempre più profonda, e dall'altra però c'è una banalizzazione invece della guerra, una superficialità che francamente forse non ho neanche mai visto. Sì, no, è interessante questo perché appunto al centro c'è questa continuità e dunque questa memoria esaltante della vittoria che percorre tutto questo centenario, però forse inaspettatamente, ma come vedremo non troppo, il libro inizia invece in maniera molto diversa. Sì. Cioè il libro non inizia da questa memoria che ha origine in realtà immediatamente dopo la fine della guerra, ma ha inizio con invece il racconto di una contromemoria, e cioè una contromemoria socialista che si sviluppa immediatamente dopo la fine della guerra e che transita in primo luogo sulle pagine dell'Avanti e che si fa forte anche della commissione d'inchiesta sulle responsabilità dei generali e dei politici durante la guerra, sul trattamento dei soldati, sulle fucilazioni sommarie, ed è una memoria molto forte, una memoria pacifista e direi antimilitarista, che però che non a caso l'autore colloca, a mio avviso, all'inizio di questo libro, anche per, e la cosa sorprende anche perché è una memoria poco conosciuta, no? Di cui sono rimaste poche tracce, una memoria che poi si concretizza anche in lapidi, in luoghi commemorativi, che però vengono molto presto spazzati via dal fascismo in primo luogo, ma non soltanto dal fascismo, no? Anche dall'intervento dei prefetti durante l'Italia liberale. Quindi nonostante questo radicamento e questa lunga durata e questa continuità della memoria esaltante, c'è un'altra memoria che in realtà si è un po' persa e che forse bisognerebbe un po' ricordare. Sì, sì, è proprio così. Nell'immediato dopoguerra, attraverso soprattutto le lettere, le memorie dei giovani ufficiali morti, viene costruita una memoria sacra della guerra, una memoria santa della guerra. Sono anche poi gli uomini di chiesa, sono i cappellani militari o gli ex cappellani militari a dare il loro contributo a questa, all'edificazione di questa memoria, alla sacralizzazione. È una guerra santa quella che è stata combattuta, è un esercito crociato quello che si è scontrato con l'Austria. Ecco, contro questa sacralizzazione, mitizzazione della guerra, i socialisti, già a partire insomma dall'estate del 19, contrappongono una narrazione assolutamente antimistificante, una narrazione che invece richiama tutta la drammaticità di quella guerra, quanto sangue sia costato quella guerra, come si era entrati in guerra. Si era entrati con un colpo di mano contro il Parlamento, si era voluta contro il popolo italiano, contro la maggioranza del popolo italiano, e poi appunto si vuole ricordare come è stata condotta la guerra, con quali metodi. Cadorna, i bollettini di Cadorna, il ricorso alle decimazioni, il ricorso alle fucilazioni. Ecco, però questo lo si fa chiamando a testimonianza decine, centinaia di reduci. La grandezza, insomma, di quel giornale, l'Avanti, dell'estate del 19 e poi anche dei mesi e degli anni successivi, è anche questa, cioè quella di chiamare, dar voce, ecco, a quelli che avevano visto, a quelli che erano stati messi in prigione, a quelli che si erano rifiutati di obbedire ai comandi giusti, a quelli che avevano visto le fucilazioni. E quindi l'Avanti in quei mesi racconta tutta un'altra storia della guerra, una contromemoria della guerra, che poi verrà ripresa soltanto dagli storici della seconda metà degli anni 60. Un libro come quello di Forcella e Monticone, Plotone d'esecuzione, che è appunto un libro tutto costruito, un libro di denuncia, anche un libro militante, tutto costruito appunto sulla documentazione dei processi militari, e che racconta questa atroce, feroce disciplina con cui Cadorna insomma controllava l'esercito italiano. E beh, tutti questi fatti, tutti questi eventi, tutti questi documenti in realtà si trovano già nel 19. Però quella dei socialisti vuole essere anche una memoria complessiva, una memoria antimilitarista ma complessiva, e quindi contro la letteratura, una certa letteratura di guerra prodotta da spesso ufficiali interventisti che avevano voluto la guerra, che avevano fatto la guerra appunto da ufficiali. Ecco che i socialisti contrappongono invece una letteratura internazionale, anche letterariamente più complessa, non nazionale ma internazionale, tedesca, ungherese, francese. È la la casa editrice del partito a volte a pubblicarlo, oppure sono i suoi giornali che pubblicano per esempio pagine del Fuoco di Barbus o altri romanzi di quell'epoca. E poi alle associazioni dei reduci il Partito Socialista contrappone la Lega proletaria dei reduci, degli orfani, delle vedove, l'enumerazione è proprio così lunga, e ai monumenti celebrativi contrappone lapidi magari più modeste, ma che però vogliono svelare la mistificazione di quei monumenti. Sono monumenti ai caduti, ed è proprio su questa parola che spesso le lapidi contrapposte insistono. No, i soldati morti non sono caduti, sono stati uccisi, sono stati massacrati. I dispersi non sono dispersi, ma sono stati annullati dagli shrapnel, dalle bombe. E non è stato il fato a ucciderli, ma è stata la borghesia militarista. E ecco, questa grande e complessa e complessiva contronarrazione socialista, è chiaro che dura pochissimo. Le lapidi già nel 23 sono tutte demolite, prima appunto dalla burocrazia delle prefetture e poi dagli assalti dei fascisti, e però anche questi libri pubblicati dalla casa editrice dell'Avanti spariscono dalle librerie, spariscono perfino dalle biblioteche, e l'Avanti stesso verrà più volte assaltato, bruciato dai fascisti. Quindi la vita per gli antifascisti già nei primi anni, prima del 26, insomma, diventa durissima, e quindi piano piano questa testimonianza, questa controtestimonianza antimilitarista viene piano piano a spegnersi e a scomparire. Ecco, ha ragione Andrea, è vero, io l'ho fatto apposta, cioè quella di mettere in primo piano questa contromemoria socialista, perché è scomparsa anche lungo questo centenario. Non c'è un libro che sia uscito a ricordare questa la militanza socialista contro la guerra. Questa pervicace, per quanto contraddittoria a volte, difesa della neutralità. È un libro, un convegno, un'iniziativa. È come se, insomma, se dal nostro panorama politico i socialisti, la parola socialismo, la parola comunismo fosse scomparsa anche in qualche modo la sua presenza nella storia. E invece anche rispetto al panorama dei partiti socialisti negli altri europei, insomma, la storia, la presenza, l'azione del Partito Socialista Italiano fu altra cosa e va ricordata. E invece appunto quello che rimane, quello che continua in questo centenario è questa sacralizzazione, il tema della sacralizzazione della guerra, no? E anche dal punto di vista del linguaggio, il linguaggio religioso, no? I martiri, la guerra sacra, i sacri confini, i pellegrinaggi nel luogo della guerra, questa presa a prestito della simbologia religiosa per raccontare la guerra. E questo ci porta un po' a un tema importante che è presente nel libro, che è quello anche del ruolo dei cattolici né durante la guerra e nel raccontare dopo questa guerra, no? Perché l'unificazione italiana nasce come dire, un po' contro la Chiesa, no? la conquista di Roma, la breccia di Porta Pia, una riconciliazione che non avviene nei primi decenni di unificazione nazionale, che avverrà poi con i patti lateranensi del 29, però la partecipazione dei cattolici, della Chiesa alla guerra segna un po' un momento quasi di riconciliazione, no? Sembrerebbe, tra lo Stato italiano e il mondo della Chiesa, il mondo delle gerarchie, eccetera. E ecco, una riflessione su questo: qual è la narrazione dei cattolici? Perché molto spesso, anche dopo la guerra, sembrerebbe che una parte del mondo cattolico guardi un po' quasi con nostalgia il periodo della guerra, cioè il periodo in cui la nazione era unita, questo mito dell'unità. Durante la guerra non c'erano divisioni, e nel mondo cattolico questo tema è piuttosto presente. Però è interessante notare come proprio dal mondo cattolico poi inizierà una visione, anche dal mondo cattolico, non esclusivamente, una visione, questo negli anni 60 in particolare, non più bellicista, ma invece una visione pacifista. Quindi ecco, una visione dei cattolici, un ruolo dei cattolici che muta in maniera molto profonda dalla guerra, nel primo dopoguerra e nei decenni successivi. Sì, questo ruolo dei cattolici è molto interessante, molto interessante. Dalle diffidenze iniziali, da un'invocata neutralità, si passa poi abbastanza rapidamente ad un sostegno attivo della guerra. Ci sono tanti fattori, non ultimo il fatto che il generale Cadorna sia cattolicissimo, che sia lui a volere l'istituzione dei cappellani militari, a reintrodurre i cappellani militari all'interno dell'esercito. E poi c'è questa alleanza con la gerarchia cattolica, con i vescovi, alcuni vescovi in particolare, meglio di altri, ma insomma la gerarchia si stringe intorno all'esercito, e la sua predicazione è una predicazione del consenso per tutta la guerra. Il compito poi in modo particolare dei cappellani militari sarà di questo tipo. Ecco, e nel dopoguerra è la Chiesa che concorre a, l'ho accennato prima, alla sacralizzazione della memoria. Faccio qualche esempio nel libro di cappellani militari particolarmente colti, che diventeranno anche poi nei decenni successivi anche figure prestigiose all'interno del mondo cattolico. Fra tutti mi soffermo sulla figura di Don Mazzolari. Don Mazzolari, che poi appunto scriverà negli anni 50 Non uccidere, che era un libro assolutamente controcorrente, tutto ispirato ad una o meglio tutto che insiste, ecco, a controbattere la teoria ecclesiastica della guerra giusta. E beh, invece sia durante la guerra, prima, durante e dopo, è un interventista anche intervenuto, diventa a un certo punto cappellano militare, cerca di farsi mandare al fronte, non ci riuscirà, andrà in Francia, poi ritornerà in Italia, però dal dopoguerra è attivo nella costruzione di questo mito, di questa narrazione, insomma, della guerra santa. Nella bandiera, nell'idea di patria, nei simboli patriottici, scrive, dice, predica, c'è qualcosa di divino. Questo uno come Mazzolari. Potete immaginare altri più nazionalisti, più dannunziani, che cosa vanno raccontando. E quindi sono loro quelli che benedicono i gagliardetti degli alpini, dei reduci, i monumenti. Sono loro che ai piedi del monumento, nelle loro omelie, raccontano questa storia sacra. E così via, insomma, questo negli anni 20, ma ancor più negli anni 30. Racconto negli anni 30 come all'interno dell'Azione Cattolica ci sia il tentativo di contrapporre, ecco, alla narrazione fascista della guerra una narrazione cattolica. E cioè, certo, ci sono stati gli eroi, i martiri, ma ci sono stati anche i soldati santi, ecco. E quindi c'è tutta una esaltazione, una apologetica, libri, collane di libri, tutte dedicate appunto all'esaltazione della morte di una serie di medaglie d'oro, soldati santi che volevano non solo un'Italia più grande, ma un'Italia più pura. E che cioè sovrapponevano all'ideale patriottico anche un ideale religioso, un'Italia più pura. Ecco, la mia storia è appunto lunga e quindi racconto anche come però negli anni 60 anche all'interno della Chiesa si faccia strada appunto una testimonianza molto diversa, una revisione molto profonda, soprattutto dopo il Concilio Vaticano II. Appunto appare questo libro di Mazzolari, che è un libro profetico, viene messo all'indice, viene proibito, deve uscire questo libro senza l'autore, riappare però dopo la sua morte negli anni 60 e imprime un segno insomma nella nuova testimonianza cristiana. E poi ci sono le figure tipiche degli anni 60, da Padre Battucci a Don Milani, che fanno discorsi severi sulla teoria, rispetto alla teoria della guerra giusta, fanno dei discorsi molto radicali sulla obiezione di coscienza, sul rifiuto della guerra, e non solo della guerra in corso, ma anche delle guerre in corso, ma anche sulla revisione insomma del discorso storico. Ecco. Sì, un altro elemento ovviamente molto presente nel libro è quello delle cosiddette terre redente, no? Sono un po' l'oggetto anche di questa guerra, l'obiettivo, la conquista, e sono il palcoscenico in cui si combatte questa guerra, e sono poi il palcoscenico in cui si costruiscono i segni, la monumentalizzazione della guerra, del ricordo e questa sacralizzazione. E questo sia a Trento che a Bolzano, che nella Venezia Giulia, a Trieste, c'è la figura di Cesare Battisti ovviamente molto centrale. Su questo non entrerei perché è un tema che da solo varrebbe, come dire, una lunga relazione. Un tema secondo me interessante, che poi ci riporta anche nell'attualità, è come il monopolio della memoria di questa guerra nelle cosiddette terre redente e del racconto di questa storia venga sostanzialmente preso dalle associazioni combattentistiche dei reduci, dei volontari per l'Italia, e quindi la Legione Trentina, no? In primo luogo, quando parliamo di Trento, e cioè queste poche centinaia di soldati trentini che erano passati nel Regno d'Italia, si erano arruolati come volontari nell'esercito italiano e avevano combattuto con l'Italia contro l'Austria. Vi è a lungo, per moltissimi anni, per moltissimi decenni, l'emarginazione della memoria delle decine di migliaia dei soldati che invece combatterono ovviamente per l'Austria. C'è un passaggio che volevo citare di un articolo uscito appunto sul giornale della Legione Trentina, in cui si parla così con fastidio della costruzione di monumenti che ricordino anche questi caduti. Si dice, è un articolo del 28 ottobre del 1922, quindi proprio una data storica della marcia su Roma. I nostri concittadini morti nella divisa del soldato austriaco non sono né vogliono essere oggetto della nostra gratitudine e non potrebbero in nessun modo venir proposti alla venerazione e all'imitazione delle generazioni future. Essi non sono al contrario che degli infelici che la guerra trasse a morire in terra straniera e per una causa che non era la loro, dando per scontato che ovviamente quelli che sono morti dall'altra parte non fossero infelici, no? Anzi, come dire, ci fosse una morte che avesse un senso e una che invece non lo aveva. E meritano quindi, ahimè, non lode e plauso, ma un compianto e commiserazione, pressa poco come le vittime di qualche grande infortunio, fuoco o inondazione, colera o terremoto. E a questi nostri fratelli disgraziati, così vengono definiti, dedicheremo qualche pio ricordo entro il luogo sacro del cimitero, ma sia ben chiaro, riserveremo le piazze per i benefattori della patria e dell'umanità. Ecco, c'è dunque una sorta di caduti di serie A e caduti di serie B, caduti la cui memoria viene completamente rimossa e rimane sotterranea per decenni, e questo ci porta all'attualità perché? Perché mi pare che poi si giunga quasi a un ribaltamento, no? Cioè che questa memoria così sepolta a lungo sia poi esplosa, e non parlo del racconto e dell'elaborazione storica, ma parlo più della piazza, così, del sentimento comune, sia poi emersa come un elemento invece di identificazione territoriale anche politica, che si è intrecciato con il mondo politico. Quindi questo tenere sepolto e silenzioso e segreto, questo vietare questa memoria, ha avuto un effetto, a mio avviso, a lungo termine anche negativo, no? Negativo lo vediamo ancora oggi, nel senso che poi parrebbe che la guerra giusta forse oggi in maniera ribaltata per certi settori del mondo politico, culturale, trentino, sia stata invece quell'altra, e con un ribaltamento totalmente ed egualmente acritico, così come era stato fatto, come era stata fatta la lettura originaria, e cioè un ribaltamento che sostanzialmente rivaluta quel mondo antico, asburgico, come se fosse il migliore dei mondi possibili, senza tensioni interne, quindi una guerra giusta perché si combatteva identificati appieno nei fini bellici della guerra austro-ungarica. Ecco, due parole su questo. È un po' come dire, un fiume sepolto che è rimasto sotterraneo e che poi è riemerso riproducendo però le stesse contraddizioni, le stesse semplificazioni, diciamo così, però ribaltate. Sì, proprio così, è una memoria sommersa. Insomma, nel primo dopoguerra, già nel 19, sia a Trieste che a Trento sono appunto questi volontari, poco più di 700 in Trentino, 1200-1300 a Trieste, e questi costituiscono nel dopoguerra la nuova classe dirigente, sono coloro che prendono in mano il potere, anche quello simbolico, anche quello culturale. A Trieste le cose andranno diversamente, il monopolio della memoria sarà poi in realtà preso dall'esercito e dal fascismo direttamente, invece nel Trentino sarà appunto l'associazione dei volontari, autodefinitisi poi legionari, l'associazione dei volontari sarà quella, insomma, a imporre la memoria italiana, la memoria della guerra patriottica, della guerra di liberazione, su ogni altra memoria. Quindi scompare, deve scomparire dalla scena pubblica L'esperienza dei 60.000 soldati trentini che combatterono con l'esercito austro-ungarico. Avete sentito, al loro ritorno non poterono neanche edificare dei monumenti sulla pubblica piazza. Ancora ora i monumenti, insomma, eretti nell'immediato dopoguerra, li ritroviamo nei camposanti, perché solo nello spazio sacro del cimitero si poteva ricordare i soldati morti con la divisa austriaca. E poi via i monumenti a Battisti, i monumenti ai martiri, i monumenti ai caduti, le aule dedicate, le aule scolastiche, le caserme, le vie dedicate appunto quante strade, quante scuole dedicate a Filzi, dedicate a Chiesa, dedicate a Cesare Battisti, dedicate a Sauro, tante, centinaia, forse migliaia in Italia, nessuno le ha mai contate, enumerate per davvero. E quindi questa memoria più dei trentini, insomma, che combatterono, che fecero un'altra esperienza della guerra su altri fronti, altre tante esperienze, beh, quella fu tutta una memoria catacombale, possiamo dire così. Visse appunto all'interno delle famiglie, fu una memoria che si raccontò nelle case, che rimase confinata negli spazi domestici per decenni, fino a, così, a riemergere soltanto all'inizio degli anni Ottanta, non prima, non negli anni Sessanta, non negli anni Settanta, ma negli anni Ottanta, appunto, quando un gruppo di storici si misero a raccogliere appunto queste testimonianze, questi frammenti, queste lettere, e a scoprire che era esistita un'altra esperienza, un'altra guerra. E quindi si diede vita all'Archivio della Scrittura Popolare, si diede vita a collane di diari, di lettere, eccetera, fino a che appunto si aprirono cassetti, archivi familiari. Da questi vennero fuori migliaia e migliaia alla fine di pezzi, di testi, di lettere. E quindi questa memoria catacombale si è rivelata in piena luce. Si sono fatti anche dei momenti pubblici anche interessanti. Nel 2010 in Piazza Dante ci fu un memoriale fu chiamato così, ma fu un'iniziativa pubblica di ricordo dei caduti trentini nella Grande Guerra. Ogni sindaco di ogni minuscolo comune, più o meno grande comune del Trentino, era chiamato appunto a leggere i morti delle proprie comunità. Quindi ci fu questo momento anche pubblico. E però questa, appunto, la riscoperta di una storia dolente, di una partecipazione sanguinosa dei trentini alla guerra, perché su 60.000 ne morirono quasi 12.000, più di altri 10.000 rimasero mutilati, feriti, eccetera. Fu un prezzo altissimo quello che pagarono i trentini. E non parliamo poi delle esperienze traumatiche che questi soldati fecero in prigionia, in Siberia, eccetera, eccetera. Ecco, tutta questa memoria dolorosa della Grande Guerra piano piano è stata trasfigurata in qualche modo in una memoria invece epica, in una memoria di nuovo nazionalista, di nuovo patriottica, di nuovo, sì, non più italiana naturalmente, ma tirolese, ma filotirolese. E che cosa sono diventati questi soldati che andarono piangendo, disperati alla guerra? Le scene che hanno lasciato scritte, le scene appunto del distacco dalle proprie comunità, sono tutte scene strazianti che leggiamo in decine e decine di testi. Questi soldati sono diventati appunto in queste vulgate, in queste narrazioni tutte patriottiche, tutte come dire, tutte tese, tutte nazionali e nazionalistiche, sono diventati dei nonni tutti già nonni, no? Questo termine affettuoso, eccetera. E sono diventati dei nonni fedelissimi all'imperatore, che difendono l'imperatore, tutti, come dire, lealisti, credendo nella guerra giusta. Ecco, di nuovo, la guerra giusta dell'Italia, questa è la guerra giusta dell'Austria. Contro la Serbia prima, contro l'Italia dopo, tutto in difesa della patria. E questa è una nuova narrazione che prescinde totalmente dai testi, che non cita nessun tipo di storia, né di storia degli storici, né di storia memorialistica, ma che viene costruita su delle su degli assiomi, su delle affermazioni senza sostanza. E è una narrazione senza libri, è una narrazione che viaggia soprattutto in internet, è una narrazione che non vuole confrontarsi con nessuno, che si propone come assoluta verità e che e gli autori appunto di questa narrazione sono spesso le compagnie degli Sutzen e Trentini, e che accompagnano appunto questa nuova, insomma, vulgata della storia dei Trentini con una aggressiva campagna di diffamazione verso gli storici e verso soprattutto noi che abbiamo speso la nostra vita per recuperare questa storia, insomma, questa storia dei Trentini, per recuperare le loro testimonianze, per recuperare queste carte fragili destinate alla scomparsa. Ecco, l'ultima domanda, poi volentieri lascerei la domanda, la parola al pubblico. E il racconto di questo racconto sulla guerra utilizza tante fonti diverse, no? Appunto, abbiamo visto anche l'architettura, la monumentalistica, i libri di scuola, il ruolo della scuola è molto presente in questo libro. E i film, il racconto che avviene attraverso le sale cinematografiche, anche le canzoni. E c'è un elemento interessante quando l'autore parla e introduce un po' il tema della rivisitazione che avviene a partire dagli anni 60, che un pochino trae spunto e si ricollega con il tema di quella contromemoria socialista, no? Negli anni 60 si inizia ad esempio a ricercare la voce dei testimoni, si inizia a ricercare la memoria di una guerra che mette al centro, più che l'esaltazione, magari anche l'estraneità a questa guerra, più che l'opposizione aperta, ma un senso di estraneità. E recupera ad esempio delle canzoni di cui si era persa la memoria, no? Delle canzoni contro la guerra, ad esempio Gorizia tu sia maledetta è una di queste. Ecco, però a queste si contrappone quello che viene chiamato il canone il canone dei canti degli alpini, che invece conoscono, questi sì, una duratura memoria e presenza ancora oggi. Ed è interessante la storia di questo canone, no? Cioè, come nasce? Erano questi canti che cantavano gli alpini? Come nasce questa tradizione? È una tradizione dal basso? È una tradizione che viene costruita, ripulita, depurata nel corso dei decenni successivi? Eppure è una tradizione molto forte, soprattutto nei nostri territori, però è una tradizione, un canone, quello alpino, che è diventato un canone nazionale, no? Non è più uscito dal localismo, ma è diventato un canone nazionale. Ecco, mi chiederei due parole su questo, su come nasce, come viene costruito questo canone. È una vera e propria costruzione. Dunque, durante la guerra naturalmente si canta di tutto. Ogni soldato si porta le canzoni dal proprio paese, quindi c'è le canzoni popolari del sud, del nord, insomma, in un grande miscuglio, possiamo dire così. Ci sono le canzoni dei cantastorie che hanno particolare successo, sono le canzoni dei fogli volanti e poi ci sono le canzoni, quelle che hanno proprio particolare successo, che vengono cantate dai soldati, sono soprattutto le canzoni napoletane, sono le canzoni che provengono da queste veri e propri laboratori che esistono a Napoli e in altre città del sud, sono imprese, sono ditte che hanno a loro disposizione anche dei tenorini, dei cantanti che vengono mandati poi al nord nelle trincee, e quindi c'è una grande diffusione del canto popolare, folclorico e però anche dei cantastorie e anche di questi canti commerciali prodotti da vere e proprie imprese. Ecco, un grande, insomma, paesaggio canoro, possiamo dire così, paesaggio sonoro, dove dentro ci sono però anche canti che si scrivono in trincea, canti contro la guerra o canti appunto dell'estranità, tanti sono i canti d'amore, tantissime sono le canzoni pornografiche o scene. Potete pensare a un universo maschile, che cosa può cantare un universo maschile di giovani maschi? Tante canzoni sulle donne. Ecco, tutto questo universo viene in qualche modo fotografato colto dai ufficiali più attenti. E fra questi c'è Padre Gemelli in modo particolare, psicologo, com'è che si potrebbe dire, consigliere di Cadorna, fa parte del suo entourage, e capisce che non è possibile lasciare, come dire, senza controllo quest'uso del canto. Non è possibile lasciare, come dire, al soldato un uso selvaggio del canto. Il canto va sorvegliato, il canto può trasmettere appunto coraggio, ideali, può creare il consenso, insomma il canto va controllato, i canoni vanno costruiti. E quindi a partire dall'ultimo anno di guerra, con il servizio P, col servizio di propaganda, già un po' prima all'interno delle case del soldato per cura e merito dei cappellani militari, ma successivamente dopo, attraverso il controllo del servizio P, del servizio propaganda, ecco che viene proibito quest'uso così sconsiderato, così selvaggio, così autonomo del canto, e quello spazio viene invece occupato dal spazio controllato dei cori. Fra questi ufficiali si distingue uno in modo particolare, che è Piero Jaillet, che scriverà poi anche un libro piuttosto noto, con me, con gli alpini. Ecco, Jaillet è appunto un ufficiale del servizio P, si dedica alla costruzione di un repertorio canoro depurato dei canti osceni, depurato dei canti di rivolta, antimilitaristi, depurati dei canti commerciali, insomma, e invece individua nel repertorio veneto-lombardo, ma sempre più veneto dopo, mano a mano che si andrà avanti, il repertorio, quello più capace, ecco, di suscitare consenso. Non è un repertorio immediatamente patriottico, ma è un repertorio che fa leva sul soldato e la montagna, sul soldato contadino ma serio e severo anche con se stesso, che fa leva sulla guerra come prova virile. Ecco, è molto abile Jaillet, insomma, capisce che che per fare breccia, insomma, non si può insegnare ai soldati gli inni patriottici, ma va ripresa invece in qualche modo una canzone che fa leva invece su altre cose, sul coraggio dei soldati di montagna, sulla pazienza, sulle virtù montanare. Ecco. E quindi si compone questo primo, ancora durante la guerra, questo primo canone, questo primo repertorio, che poi avrà un successo enorme. Diventerà sempre, durante il fascismo, sempre più depurato questo repertorio, e verrà cantato appunto dai cori dell'Ana, dei cori della montagna, verrà cristallizzato, possiamo proprio dire così, attraverso il coro della SAT, anche da un punto di vista musicale. È il coro della SOSAT, e poi diventerà il coro della SAT negli anni 30, a consacrarlo. È naturalmente un repertorio, un modo di cantare, che viene riconosciuto ormai come il canto di guerra negli anni 30, viene apprezzato da Mussolini, viene cantato questo durante l'incontro tra Mussolini e Hitler, diventa insomma il racconto popolare della guerra. E poi anche nel dopoguerra continuerà, insomma, questo canto, e arriva fino a noi, insomma, i canti degli alpini, i canti della montagna sono questi. Certo, sono un po' dolenti, però non mettono mai in discussione la guerra, il combattimento, il valore del soldato, il prezzo va pagato, è un dovere che va compiuto, è un sacrificio che va fatto, è un sacrificio che vale, eccetera. E quindi la guerra giusta anche attraverso il canto, e che anche questo arriva fino ai giorni nostri. Io intanto ringrazio Quinto per queste esaurienti risposte. E comunico che il libro è praticamente esaurito, e infatti soltanto alcune copie sono state recuperate per chi fosse interessato ad acquistarlo. E io lascio la parola ai presenti se ci sono delle domande, delle osservazioni. Prego. La prendo questa. Due cose. considerazione subito all'inizio, molto breve, visto che ha citato Padre Gemelli, che non sapevo che avesse fatto queste cose. Visto che sono passati 80 anni dalle leggi razziali, volevo ricordare l'antisemitismo di Padre Gemelli. Ecco, tutto qua. Poi due domande. Poi oggi è una data abbastanza particolare, no? Perché sono state pubblicate oggi, 80 anni fa. Sì, esatto. Noi siamo entrati nella prima guerra mondiale quando nel centro delle piazze c'erano i monumenti a Vittorio Emanuele II, Garibaldi, Cavour, qualche rarissimo Mazzini da qualche parte, no? E ne siamo usciti con monumenti a soldati anonimi, ma quello che mi ha sempre colpito è che in Trentino, ma non solo in Trentino, buona parte di questi monumenti, anche nei piccoli paesi, questi poveri monumenti così, sono stati costruiti con la raccolta di fondi casa per casa, cioè non è stata un'autorità superiore a decidere la costruzione di questi, a pagare la costruzione di questi monumenti, ma è stato effettivamente un movimento di popolo. Questo mi ha sempre incuriosito. La domanda è se c'è un qualche tipo di spiegazione, no? La seconda domanda è, ne approfitto subito, no? È che nel secondo dopoguerra, anche a livello letterario, non parlo di memorialistica, parlo di letteratura, no? Non è stata prodotta una grande letteratura sulla prima guerra mondiale, insomma. Jalier stesso è bravo come poeta, no? Come romanziere, ho i miei dubbi, no? E invece il cinema si è occupato. Abbiamo alcuni film grandi, Orizzonti di Gloria, La Grande Guerra, Uomini Contro, un po' più tardi. E anche questo mi ha sempre stupito, che il cinema, poi un'arte costosa, che ha bisogno di investimenti di capitale, si sia occupato in maniera abbastanza contro, no, abbastanza alternativa, diciamo così, della Grande Guerra, in maniera critica, diciamo così. E per Uomini Contro magari gli anni erano quelli giusti, ma già per la Grande Guerra, per Orizzonti di Gloria, non era ancora, mi pare, il momento di grande rivoluzione culturale. Cioè, grazie. Prego. C'è un'altra domanda, magari. Sì, uniamo. Sì. Sì, grazie. Ho scovato tra i miei libri uno di Wolfgang Schilderbusch, La cultura dei venti, dove ci sono delle asserzioni che mi hanno allora stupito e che vorrei sottoporle per avere un suo parere. Leggo brevissimo. La capitolazione tedesca nel 1918 rappresentò un fatto storico unico, non solo per essere stata fulminea, ma anche perché nessuna nazione aveva mai deposto le armi mentre le sue forze armate si trovavano ancora in una posizione così avanzata nel territorio nemico. Opinione diffusa non solo in Germania, ma anche nello schieramento nemico e nei paesi neutrali. Tutti convennero sulla mancanza di grandezza eroica dei tedeschi. La Germania non era né Ettore né Achille, semmai assomigliava a Padre, che, affrontato infine da Menelao, fugge dal campo di battaglia con l'aiuto di Afrodite. Non c'era nessun precedente di una nazione grande e potente che stesse combattendo per la propria sopravvivenza, che si fosse arresa mentre aveva ancora i mezzi per resistere. Naturalmente, proseguendo nella lettura del libro, si ha la sensazione che ci siano stati degli episodi di codardia e di, come si potrebbe dire, di sabotaggi interni. È vero tutto questo, storicamente parlando? C'è qualche altra domanda oppure rispondiamo intanto? No, direi che possiamo poi rispondere. Allora, i monumenti in Trentino, ecco, questi monumenti fatti con i fondi delle comunità sono quei monumenti di cui dicevo prima, cioè quelli eretti nei cimiteri ai trentini morti in Galizia, in Serbia, in Romania, in prigionia in Russia. Questo è verissimo, cioè questi furono eretti, questi monumenti, soltanto attraverso la sottoscrizione delle comunità, non. E, ecco, altra cosa sono invece i grandi monumenti, i cippi della Legione Trentina, tutti i 100 morti dei volontari trentini, i grandi monumenti a Cesare Battisti, i piccoli monumenti a Fabio Filzi, a Chiesa. Questa è un'altra monumentalistica, altre cose. E, il cinema, ecco, il discorso sul cinema è molto interessante. Allora, il cinema contro la guerra, però prima del cinema contro la guerra c'è il cinema celebrativo della guerra, e non parlo degli anni 30, perché il picco della produzione di film celebrativi avviene in Italia, parlo solo per l'Italia e per la produzione italiana, avviene negli anni 50. Negli anni 50 c'è un'esplosione di film, spesso sono filmetti, sono film di serie B, sono film che costano poco, ma film del consenso, film celebrativi, è la celebrazione dell'eroe, è la celebrazione del bel gesto, è la condanna di chi alla guerra non ci vuole andare. Insomma, sono melodrammi di solito questi, ma sono decine che escono negli anni appunto 50, sono melodrammi al centro dei quali c'è appunto l'azione eroica del volontario, dell'interventista, spesso anche nobile, sempre ufficiale, e poi nello stesso tempo la condanna dello studente, magari socialista, che non va in guerra, che sta al paese, che insidia la moglie del grand'uomo, dell'eroe. Insomma, sono melodrammi di questo genere. Ce ne sono quelli poi a metà degli anni 50 esplicitamente antisocialisti, molto duri. Insomma, pensiamo cos'era l'Italia, il mondo negli anni 50, la guerra fredda, la contrapposizione. Bene, questa contrapposizione tra Democrazia Cristiana e sinistre si vede anche nel cinema. Nel 59 c'è appunto la Grande Guerra di Monicelli, a cui abbiamo dedicato anche un'immagine di copertina. Ecco, non si capirebbe la grandezza di questo film se non sul fondale di tutti questi film del consenso. Questo è il primo film che intanto fa vedere la guerra guerreggiata, vera, insomma. Insomma, vediamo dei soldati e dopo vediamo, insomma, che i protagonisti di questo racconto non sono gli ufficiali, non sono i nobili, non sono gli eroi, non sono gli interventisti, ma non sono neanche quei montanari, quegli alpini celebrati dalle canzoni della Grande Guerra, non sono i veneti, non sono il Bepi e il Toni con tutte le virtù popolane. No, sono due disgraziati, sono due subalterni, sono due emarginati, sono due del malaffare, sono due truffatori, sono due malandrini che la guerra non la vogliono neppure vedere, costretti a parteciparvi, ma sempre lì in attesa di trovare un varco da cui fuggire, da cui fuoruscire. Uno scandalo. Fu uno scandalo enorme. Dentro qui, per chi l'ha letto, c'è un mio nemico personale, no? Che è Paolo Monelli, che io prendo di mira in modo particolare, e perché è molto presente, è un principe dei giornalisti, è lo scrittore, colui che interviene ogni volta sulla guerra, è colui che imprime un segno alla memoria nazionale della Grande Guerra, è colui che viene qui a Bolzano e che descrive l'inaugurazione del Monumento alla Vittoria, eccetera eccetera. Però è anche quello che dà il là a tutti i giornali, che scatena la canea dei giornali moderati, diciamo così, contro Monicelli e contro questo film. E non ebbe vita facile, questo film. E si poté fare, Monicelli lo poté fare semplicemente, è sbagliato dire così, perché ci fu il permesso alla fine, il placet di Giulio Andreotti, che era ministro dello spettacolo, potente ministro, e che lo fece passare attraverso la censura, rilesse il copione più volte, dette delle sue indicazioni e cambiò il finale. Se vi ricordate il finale, insomma, in qualche modo nel finale questi due si redimono, no? Scoprono l'orgoglio di essere italiani. Nel finale originale non era così, continuavano la loro scenetta, il loro teatrino vittimistico fino alla fine. E poi, se notate, se avete presente il film, c'è un altro, come dire, segno andreottiano, che è quello che si imprime sulla figura degli austriaci. In realtà non sono austriaci, ma sono tedeschi della SS quelli che vengono rappresentati nel film. Ognuno che guarda il film adesso riconosce immediatamente, nel vestito, in quegli stivali neri, nel frustino, eccetera, l'immagine ormai depositata dei tedeschi, dei germanici. Non sono austriaci, ma sono quelli della seconda guerra. Tutto questo rendeva tutto più plausibile, tutto più comprensibile. Attraverso queste modifiche, quindi, il film esce. Tutt'altra cosa, uomini contro, siamo nel 70, tutt'altra cosa, voglio dire, nella trama del film, un film esplicitamente antimilitarista, un film duro, che riprende il romanzo autobiografico di Lussu, Un anno sull'altipiano, e però lo porta alle estreme conseguenze, in qualche modo lo rilegge con uno spirito radicalmente antimilitarista. E però quel film, fatto alla fine degli anni 60, dopo il 68, ebbe anche quello delle vita durissima, tanto che innanzitutto Rosi non trovò nessun produttore e dovette produrlo da solo. Non ebbe il permesso di farlo in Italia e lo fece in Jugoslavia. Quindi, certo, film contro la guerra, ma, come dire, a fatica, con pervicacia, credendoci all'interno di un panorama che però continuava ad essere celebrativo, patriottico, eccetera. C'era l'ultima domanda? Sì, ecco. Qui potrebbe intervenire tranquillamente Andrea, ma io penso che quella che abbia letto sia una leggenda mitica, insomma. Gli imperi centrali crollano lo sappiamo ormai abbastanza bene, per implosione, perché la struttura economica non regge più, la struttura sociale ed economica della Germania e dell'Austria non reggono, arrivano nel 18 assolutamente disgregati, c'è la gente che muore di fame, in Germania i bambini muoiono di fame, ai bambini manca il latte, in una irreversibile crisi economica che porta i soldati nell'estate del 18 a non avere più nulla. Ci sono testimonianze di ufficiali che dicono: come faremo ad affrontare l'inverno? Non abbiamo più un chiodo, non abbiamo un asse, come faremo a ripararci? Non abbiamo più cibo. Questo è la insomma, certo, ci sono i soldati, ma sono soldati nudi, senza dietro una struttura economica capace di alimentarli, vestirli, sorreggerli, e poi c'è una società assolutamente in disfacimento. Bene, io ringrazio molto Quinto Antonelli, ringrazio molto anche i presenti, e ecco, qualcuno se è interessato ad acquistare il volume qui, e buona serata.